Questo è il nostro suono tra le immagini che trucano. Io sputo sopra un cono per le teste che s'ammucchiano qua. Vista che succhiano, saranno vista loro. Fuori dal coro porto oro, incenso e birra come zucchero. Colpi che fluttuano per spliff che si fumano. Bottiglie che consumano, i bastardi ti importunano. Riassumono il controllo sulle strumentali. Tocco suoni digitali senza impronte digitali. Tu che ti cali, se poi dopo prendi pali. Porta i sali quando sali che condisco i tuoi ideali. Sento un disco tutti uguali, discoteche originali. Verticali nei locali ma le fette non le scali. Tra tetti commerciali più canali nel commercio. Occhi aperti aperti al peggio, finti esperti che danneggio. Io suono lerce, tu non fare tanto il fake. Perché quattro dei tuoi album non valgono un mio mixtape. Sai darmi un minimo una spiegazione? Com'è che metti bocca in ogni situazione? Questo è il mega remix e non potrai fermarmi. L'intento andare oltre con le forze che ho. Onde chiare nelleggiare, da noi non si può alloggiare. Molleggiare, noleggiare il tuo CD che da lanciare. Ma non nel senso pubblicitario. È che il tuo tempo è indietro in senso antiorario. Lo tagli divario, zero salario. Per questo resto ancora al buio ai vicoli nel barrio. Ma c'ho un diario di allenamento che fa spavento. Lo sai che ti darò il tormento. E tanto non sarai mai come Maut, come mai, come noi. Sai che non ce n'è. E tanto non sarai mai come Maut, come mai, come noi. Proprio non ce n'è. Sai darmi un minimo una spiegazione? Com'è che metti bocca in ogni situazione? Questo è il mega remix e non potrai fermarmi. L'intento andare oltre con le forze che ho. Non scusarti con gente che non si scusa. Abusa, la tua mente è chiusa. Noi bastardi sotto accusa. Mentre la notte cala, manca l'aria e sale l'asma. Questo è il mega remix nella traccia fantasma. E tanto non sarai mai come Maut, come mai, come noi. Sai che non ce n'è. E tanto non sarai mai come Maut, come mai, come noi. Proprio non ce n'è.